Radio Archimede, la nuova radio di Settimo Torinese che trasmette da Archimede e arriva in ogni luogo su www.radioarchimede.it. Bentornati in onda su Sono Solo Nuvolette, io sono Fulvio Gatti. Partiamo con qualche minuto di ritardo oggi, ma saremo rapidi, efficienti e implacabili come dei giapponesi. E il riferimento ai giapponesi non è casuale, perché abbiamo ospite qui in studio con noi Massimo Sumaré. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno a tutti. Parlo un po' più vicino al microfono, Massimo. Ok. Me lo mangio. Allora, la difficoltà più grande oggi, e intanto comincio subito a dare anche due dritte multimediali, visto che oramai sono iperconnesso grazie al mio social media manager Eddie Pedro. Se volete seguire e intervenire in trasmissione, c'è un hashtag su Twitter, sono solo nuvolette come il programma, oppure io sono chiocciolina Fulvio De Cat, o c'è anche una pagina Facebook, sono solo nuvolette. Massimo Sumaré, è molto difficile definirti perché hai una serie di identità tutte legate al mondo della cultura pop, del fumetto e dell'Oriente. Come fai a riassumerti con un'unica parola? È possibile? Sì, sono un mercenario della peggior specie. Avete presente Guts di Berserk? Ecco, io sono una versione del genere, meno violenta, ma... Sapevamo che Massimo sei una persona implacabile e feroce sei un lupo, giusto? Beh, più o meno. Vabbè, io sono un gatto, non c'è la volpe, ci manca la volpe, oggi siamo discretamente uno zoo. Ecco. Sei un po' meno feroce di un lupo, dai. Sì, sì, difatti c'era una volta il famoso un videogioco con la dicitura i lupi non dormono mai, io invece dormo parecchio, per cui... Infatti. ci stiamo allargando un po' troppo in versione cialtrona, quindi facciamo le persone serie. Massimo Sumaré, ti presento bene io. Tu sei traduttore, interprete dal giapponese, conoscitore della cultura giapponese, esperto fa anche molto più figo, quindi diciamo esperto di cultura giapponese. Sì. Ma le tue radici formative da dove arrivano? È più questione di studio o anche di esperienze all'estero? No, di varie cose, nel senso che per esempio io quando ero più giovane, diciamo quando frequentavo le scuole superiori, ero appassionato più che di cartoni, per esempio di telefilm storici. Allora, sembra incredibile, ma passavano alla televisione su quei sei canali ormai dimenticati, queste serie di telefilm storici con ninja, samurai, eccetera. E quindi ovviamente mi piacevano anche i cartoni animati, però mi interessavano molto anche questi telefilm legati alla storia. C'era una fascinazione per comunque questa cultura orientale o giapponese specifica? Questo è nelle tue radici, quindi? Sì, diciamo che i cartoni animati, ovviamente, come anche tu sai, in quel periodo avevano tipo Goldrake, per citarne uno ormai famosissimo, cioè, allora ormai famoso, era una cosa abbastanza diversa da quello che si vedeva prima. Prima avevamo dei cartoni animati come Tom e Jerry, Gatto Silvestro, belli quanto vogliamo, però non c'erano storie. Quando sono arrivati i cartoni animati giapponesi, ci sono stati dei cartoni dove c'erano effettivamente delle storie che si sviluppavano. Beh, questo è già comunque un argomento, perché nel passaggio di questi anni, quello che era la novità, quello che era la stranezza, è diventato un po' il nuovo mainstream. Metti l'immagine di Lupin, la puoi mettere ovunque. Lupin terzo, il ladro, sono cose che sono parte della cultura, di un certo immaginario delle persone che oggi hanno tra i 30 e i 40 anni. Ma sicuramente, però se noi prendiamo Lupin, tipo il primo Lupin, che insomma aveva anche delle relazioni con le donne, uccideva, sembrava più Diabolik, e poi facevi il confronto con Gatto Silvestro, ovviamente erano due cose che non... creavano un certo shock in chi li vedeva, e certo. Ancora oggi, trentenni, quarantenni, i vari Lady Oscar, Mimi Ayuhara, quando si allenava con la catena, che era una cosa... Sì, hanno sicuramente lasciato un'impronta forte. Ma c'è un cartone animato che è definito come il primo arrivato in Italia, trasmesso dalle TV private, credo che fosse, non certo dalla RAI? Dunque, sì, in realtà i primi cartoni animati sono arrivati tramite la Francia, per esempio Goldrake, okay. Anche i nomi Alcor e via dicendo, erano quelli utilizzati per l'edizione francese. Quindi direi che cioè normalmente viene ritenuto che il primo sia stato Goldrake e poi Heidi, che era più diretto a un pubblico femminile. Adesso non voglio dire sbagliare, ma mi sembra che in realtà il primo a essere stato trasmesso in Italia sia stato Vicky il Vichingo. Okay. Che non sembra un cartone animato giapponese, ma in realtà era una produzione giapponese. Ah, ok, non aveva ancora quelle caratteristiche che noi identifichiamo con il cartone animato giapponese, con l'anime. Sì, poi alla fine degli anni 60 è divertente, per esempio, che il primo film di Topo Gigi è stato fatto dai giapponesi. Ah, sì, questo... Molti sanno, Topo Gigi e la guerra dei bottoni, inedito in Italia, perché abbiamo un Topo Gigi che ha a che fare con i missili nucleari. Sì, è un personaggio nostro che però è diventato molto forte in Giappone, Topo Gigio. Topo Gigio e anche Calimero. Infatti molti giapponesi pensano che Topo Gigio e Calimero siano dei prodotti giapponesi. No, li abbiamo fatti noi, lasciateceli perché... Ok, ma secondo te perché? Perché per la riconoscibilità non sono abituati così tanto a personaggi così iconici che abbiano varcato i confini, perché noi abbiamo i nostri personaggi iconici, però non tutti. No, credo più che altro, molto semplicemente, perché ci sono state delle serie animate, sono state prodotte in Giappone. Ah, sono ok. Sono arrivate anche qua, quindi sì. Tanti bambini giapponesi hanno conosciuto più quelle e quindi pensano che... Sì, beh, ma per noi era già la stranezza, comunque quando ero bambino io, che c'era stato Bentornato Topo Gigio, questo sui canali per bambini Mediaset, era una stranezza, perché era un cartone animato... collocato nella fascia, fatto alla mania dei giapponesi, però Topo Gigio è un personaggio italiano, quindi era una stranezza. Sì, e sì. Anche Calimero ha avuto questa fortuna. Sì. Oltre confine. Sì, sì, anche Calimero in Giappone ha avuto una serie con una serie di altri personaggi che originariamente non c'erano. Però in effetti questo è abbastanza interessante, perché evidenzia il fatto che quando c'era Carosello, comunque negli anni 60, e il cartone animato italiano era un cartone animato che stava impattando, possiamo dire, anche a livello internazionale. Poi abbiamo, come si dice, perso un po' il treno. Sì, però... beh, è capitato, vabbè, mettiamolo in positivo, che capita che certe volte si sono create delle industrie dell'intrattenimento che poi non hanno vissuto. Tanta animazione adulta, tra virgolette, che poi in realtà il nome più per tutti è Bruno Bozzetto, arrivano in italiane, arrivano da Carosello. Ah, sicuramente, Carosello è stato lo stesso Maurizio Nichetti, un grandissimo mercato per quelli. Infatti poi quando non è stato più trasmesso è lì che abbiamo incominciato a perdere un po'. C'è tutta una bella storia riguardo all'animazione. Non ho ospiti immediati da contattare, ma posso provare a recuperarli, perché qui a Torino c'è stata anche una sorta di piccolo rinascimento del film di animazione con Lanterna Magica, con una serie anche di lungometraggi. Magari potrebbe essere un'altra situazione su cui esplorare in un'altra direzione. E Massimo, poi continuiamo a parlare con te di manga, anime e della tua esperienza di traduttore. Adesso mi piaceva lanciare la prima canzone, che oggi sono in una fase particolare, quindi la dedico a una fanciulla che spero che mi stia ascoltando. Se non mi sta ascoltando, pazienza. È un pezzo dei Van Halen, si intitola You Really Got Me. E torniamo in onda con Sono Solo Nuvolette. Io sono Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter. Questa è Sono Solo Nuvolette, l'ho detto 30 secondi fa, però a volte quando uno va un po' di fretta si accavalla. Questo è un programma sulla cultura pop ad ampio raggio, è nata sul fumetto, ironicamente ci piace dire Sono Solo Nuvolette perché sminuiamo questa non arte, perché forse un po' troppi che le impugnano, forse tante situazioni in cui la cultura in genere viene impugnata come qualcosa di alto, poi viene uccisa, invece tanta cultura viva è quella commerciale, quella popolare, come il fumetto, come il manga. E oggi vogliamo parlare di manga e di Giappone con Massimo Sumare, che è un esperto traduttore e interprete dal giapponese. Tu di recente hai tradotto alcuni manga, giusto? E puoi già annunciare anche un'altra serie che stai traducendo? Sì, sì. Io adesso ho un fumetto che si chiama Oku in corso, e adesso ormai ne esce uno all'anno. Poi ho iniziato a tradurre una serie che si chiama Mao Yusha, il re dei demoni e l'eroe, che è un fantasy un po' particolare, dove invece di essere, sì, ovviamente ci sono formule magiche, spade e quant'altro, però al contempo è incentrato sulla politica e sull'economia, quindi è un po' come se ci fosse il Signore degli Anelli con Aragorn e Sauron, solo che Sauron è una signorina molto procace C'è questa tendenza un po' nel manga, nell'anime, a mettere le signorine precaci in qualsiasi situazione. Chissà come mai. Sempre parlando di narrativa popolare, quello è un elemento che non guasta mai. No, poi ci sono anche serie come Naruto Bleach, dove i personaggi con lo scorrere del tempo sono diventati sempre più formosi. Perché evidentemente il mercato quello richiede. E appunto è come se ci fosse appunto questi due personaggi che invece di scontrarsi a un certo punto ragionano sul fatto che per far terminare una guerra bisogna fermare tutta una serie di interessi da una parte all'altra, e quindi abbiamo il signore del male e l'eroe che si mettono d'accordo per cercare di pacificare una situazione. È un pensiero politico tutt'altro che banale. No, interessante, perché poi per esempio ci sono delle parti che spiegano tutto il sistema delle caste, delle parti che spiegano tutto il sistema dei servi della gleba, l'invenzione della stampa. La faccia. Sì, infatti tradurlo. Infatti, se qualcuno fosse sfuggito, vuoi ripetere il titolo? Si chiama Mao Yusha, Mao Yu, il re dei demoni e l'eroe. E uscirà? Questo è già uscito, deve uscire il secondo, è uscito il secondo volume qualche giorno fa. Poi c'è un altro fumetto che è stato annunciato proprio credo ieri o l'altro ieri dalla Panini Comics, che si chiama, il titolo originale giapponese è Arpeggio no Blue Steel, ed è una storia di fantascienza con delle navi della Seconda Guerra Mondiale che ritornano, cacciano gli esseri umani dal mare e prendono appunto il controllo delle acque, e queste vecchie navi in realtà sono attrezzate come delle astronavi spaziali tipo l'Enterprise. E c'è una tendenza maggiore a utilizzare l'elemento fantastico nella cultura giapponese rispetto alla nostra? Quindi il discorso è un po' complesso. In realtà il grosso problema è cosa vende al di fuori del Giappone. Siccome il target molto spesso dei fumetti è quello dei ragazzi, si tende normalmente a avere storie romantiche, storie di fantascienza, fantasy. Ok, siamo noi in Italia che abbiamo una percezione sfalsata di manga e anime, perché ciò che viene tradotto e importato è principalmente ciò che è rivolto ai young adult. Sì, esattamente, ma non solo ragazzi, in Italia, questo in tutto il mondo. Ciò che viene esportato nel mondo di base sono... Sì, perché per esempio in Giappone ci sono i fumetti per le casalinghe, che ovviamente qui sarebbe un po' più difficile. Ci sono dei fumetti politici in cui sarebbe proprio l'equivalente come Berlusconi o Renzi fanno questo, con dei personaggi in mezzo, c'è tutta un'evoluzione che anche lì, cioè, noi della politica giapponese mediamente non... Quello non avrebbe senso essere esportato, esatto. Però credo che la dica molto lunga sulla penetrazione del manga, del fumetto giapponese all'interno della vita comune della società giapponese. Sì, sicuramente loro hanno dei numeri che a noi, ma anche di romanzi, ci sono comunque light novel che sono romanzi per ragazzi che vendono 20 milioni di copie, cioè dei numeri manga ne vendono ancora molti di più. Poi è ovvio che in realtà non è che tutti i giapponesi leggano manga, quello è un po' un errore, perché poi magari c'è il giapponese che gli chiedi e ti piace, hai letto e ti piacciono i manga, e ti dice che roba sono, ne ho letto uno in vita mia e basta. Sì. Però sicuramente hanno una grossa diffusione. Ma è anche c'è anche un discorso culturale, nel senso non c'è qualcuno dall'alto che dice ciò che è cultura e ciò che no? No, perché in realtà poi anche la situazione del manga giapponese, del fumetto italiano negli anni 70 non era così diversa. C'è stato poi proprio preso due strade completamente diverse. C'è da dire che per esempio in Giappone ci si sposta molto in metropolitana. Cioè andare a metterci un'ora e mezza per andare al lavoro, un'ora e mezza per tornare, non è una cosa così rara. Okay. Per cui questo vuol dire che adesso abbiamo gli smartphone, tutte le periferiche multimediali e tutto quello che vogliamo, però già solo negli anni 80 il Walkman, altrimenti dovevi leggere. Sì. E quindi se noi calcoliamo il numero di persone che vivono in una metropoli come Tokyo, anche in altri posti, il tempo libero che avevano durante gli spostamenti per recarsi al lavoro o a scuola, è certo che voleva dire che una buona parte di persone poteva avere dalle 2 alle 3 ore al giorno per poter leggere. Sì. Quindi il pendolarismo crea lettori. Sì. Sì, e questo si vede per esempio anche in altre città che hanno, dove ci si sposta molto in metropolitana. Non so adesso i dati aggiornati, perché appunto con lo smartphone, tutte queste apparecchiature hanno cambiato un po' la situazione. Certo. Ma sicuramente fino agli anni 80-90 incideva parecchio sulle vendite sia dei giornali che dei libri. Ok, questo è molto interessante. Un mercato creato dalle abitudini stesse dei consumatori. Mentre ad esempio in Italia, che non c'era questa cosa, effettivamente... Sì, sì, beh, ma come sempre l'Italia è un paese che non legge. Bisogna sempre un po' i luoghi comuni, le frasi così, bisogna sempre un po' contestualizzarle all'interno anche delle abitudini sociali. Se non trasmetti di solito la lettura in genere... Stavo partendo con un discorso un po' barbogio, quindi quasi quasi mi taccio e mando la canzone. No, lo porto fino in fondo, perché ora mi prendo la responsabilità di quello che dico. E tante volte la lettura è un qualcosa di sociale o familiare, lo impari da piccolo se vedi i tuoi genitori leggere. E il contesto sociale ancora di più, perché se non c'è lo spazio fisico, umano, non so come dire, nel tempo libero non è percepito lo spazio per leggere, non leggerai. Ma questo non è colpa dell'ignoranza di qualcuno, della pretesa, a volte non viene mantenuto. E dopo questa perla di improvvisa intelligenza, ripeto un mio tweet recente. Ho comprato di recente uno smartphone e sto utilizzando Twitter, queste cose così, e mi sono accorto che lo smartphone ha intaccato un luogo deputato della lettura nella mia vita, di cui non parlerò chiaramente, però la mia battuta era: se Doc Brown avesse avuto uno smartphone non avrebbe mai inventato il flusso canalizzatore. Sto parlando di Doc Brown di Ritorno al Futuro. È una battuta un po' nerd, qualcuno può capire il riferimento, qualcuno no. Io, piuttosto che coprirmi di contumelia, potrei far che mandare una canzone. E dopo la settimana scorsa ho fatto una playlist funky, questa volta ci spostiamo un po' più verso l'hard rock AOR. C'era un gruppo negli anni 90 che si chiamavano Mr. Big, c'è ancora, anche 2000, ci sono ancora adesso, per carità, adesso non diamo dei termini a delle band esistenti. Un pezzo che si intitolava, che sto per mandare in onda grazie a Filippo in regia, Green Tinted Sixted Mind. Abbiamo un problema tecnico, ci deve essere un gremlin che gira per lo studio, sono cose che succedono. Quindi niente canzone, niente Mr. Big, che evidentemente si sono arrabbiati perché ho pronosticato una loro... Sì. Cosa non dovevi. Brutte cose che succedono. E Massimo, nel manga, nell'anime, la componente soprannaturale è sempre molto presente, soprattutto nell'irruzione nella vita quotidiana, o sbaglio? Sì. Forse beh, anche questa è una semplificazione di genere, ok? No, più che altro, effettivamente, questa è un po' una caratteristica sia della letteratura giapponese che del manga che del cartone animato, che si va molto spesso... Anche racconti fantastici di fantascienza vanno a innestarsi sulla realtà. La famosa storia dell'UFO che non atterrerà mai a Lucca, sì. Che ha tappato le ali alla fantascienza italiana. Era una battuta di Fruttero Lucentini, curatore di Urania. Esattamente. E per i giapponesi invece è stato l'inverso. Se noi andiamo a vedere un sacco di opere, vediamo che sono ambientate a Tokyo o anche in altre città giapponesi. Cioè loro hanno fatto l'opposto. Che problema c'è se un UFO atterra a Tokyo, se abbiamo una fata irlandese senza testa in un quartiere di Tokyo? Sì, beh, penso che sostanzialmente le affermazioni di Fruttero Lucentini, che erano tutt'altro che degli sprovveduti, sia legata al discorso culturale, che loro pubblicavano l'epoca d'oro della fantascienza, che era americana al 100%, con qualche britannico al massimo, e quindi quel tipo di cultura era difficile di esportarla nei suoi caratteri più semplici. Poi abbiamo degli eccellenti scrittori di fantascienza italiana, ma hanno dovuto un po' reinventarla. Però stesso periodo, Giappone, stessi scrittori di fantascienza, okay, ambientata tranquillamente in Giappone, e vendevano. Ma avevano comunque l'influenza americana o no? Comunque con l'influenza americana. Ce n'erano alcuni, no, quegli anni lì ormai c'erano molti autori che erano autonomi, come Tsuya Sutaka, che rientra nella corrente in cui appartiene anche Calvino. In Italia io gli ho tradotto un racconto, è uscito un romanzo pochissimo, in Francia gli è andato il cavalierato per le arti e la letteratura. E la differenza è stata che poi loro sono riusciti ad avere una critica letteraria seria sulla fantascienza. Noi invece... poco, cioè ci sono gli esperti, eccetera, ma in ambito accademico la fantascienza è qualcosa che sta cambiando adesso. Cioè, addirittura c'è un racconto di un'autrice di fantascienza giapponese che ha vinto il massimo premio letterario per la cultura mainstream. Cosa che per esempio in Italia non se ne parla. Sì. Qualche steccato sta cadendo, nel senso GP candidato al premio Strega. Stiamo parlando di altre nicchie, un conto alla fantascienza, un conto al fumetto. Forse in effetti ciò che ha giocato a GP è di non essere assolutamente di genere, venire da una cultura molto letteraria. Sì, sicuramente, cioè comunque lo stesso si può dire di Corto Maltese, la ballata del Prato, che ha vinto anche un premio che normalmente era dato a romanzi, che non sono proprio di genere. Diciamo che in Giappone il genere è, che sia il fumetto, che sia la letteratura, è comunque qualcosa di molto potente e ha molti, molti appassionati e molti lettori. Da noi invece è sempre un po' una specie di sottocultura e quindi in effetti, se per esempio in Giappone tantissime cose che da noi sono sottocultura sono apprezzatissime. Banana Yoshimoto, tanto autrice che penso molti lettori conosceranno, e quando è venuta in Italia le prime volte si è commossa tantissima a finalmente poter incontrare il suo maestro, uno dei suoi due maestri, chi era? Dario Argento. E gli dice che senza Dario Argento lei non si sarebbe mai messa a scrivere. Ok, ma quale scrittore italiano, diciamo, di mainstream ammetterebbe per dire che pubblica in Feltrinelli, perché Banana Yoshimoto esce in Feltrinelli. Sì, ok, questi sono corti circuiti cortocircuiti internazionali che ci fanno un po' capire quanto certe barriere lasciano un po' il tempo che trovano. Poi ovviamente il fumetto a seconda dei paesi ha delle sue caratteristiche. Il fumetto francese è un fumetto incentrato molto artistico, incentrato molto sugli sfondi. Il fumetto americano è un fumetto incentrato molto sul supereroismo, sulla potenza dei corpi. Sì, è tutta una serie di distinzioni tra mercati. Gli editor giapponesi odiano gli sfondi, non vogliono gli sfondi. Ok. Vogliono le, sai, parlavamo sì, tempo teste fa, parlanti. Le teste parlanti in primo piano, perché dicono che così si può, il lettore si può immedesimare meglio nel personaggio. Ok, torniamo a parlare anche di questo. Adesso abbiamo la possibilità di recuperare la canzone. I Mr. Big ci hanno tolto la maledizione, quindi li mandiamo in onda. Filippo, quando vuoi, Mr. Big. E siamo tornati in onda. Io sono sempre Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter, in studio con me Massimo Sumare, in regia Filippo e il Gremlin qui che gira, che oggi ci ha fatto un po' tribolare, ma noi siamo amici dei Gremlins perché fanno parte della cultura pop. Io ho anche incontrato di persona Joe Dante alcuni anni fa al Torino Film Festival. Gli chiesi una cosa buffa, se era vero che aveva montato Star Crash di Luigi Cozzi per il mercato americano, e lui mi disse che non il film intero, ma solo il trailer per Roger Corman. Star Crash, alias Scontri Stellari della quinta dimensione di Luigi Cozzi, un film che uscì pochi mesi dopo a Star Wars, a Guerre Stellari in Italia, e era un po' difficile distinguere la differenza perché era un mondo senza internet, e quindi capitava che tanti film italiani venivano fatti, consumati, film di genere, consumati in cinema con pseudonimi da parte degli autori e degli attori di anglosassoni, e in realtà erano film italiani. Da quel calderone poi è nato anche Sergio Leone, che ha saputo anche reinventare le sue idee di cinema. E Massimo, oggi buttiamo giù gli steccati, nel senso ci rendiamo conto che tanti limiti di genere, non di genere, popolare, nazionale popolare oppure colto, non necessariamente hanno la valenza che gli attribuiamo, soprattutto poi quando si varca il confine. Il manga poi ha una particolarità in più, direi che c'è tutta una fascia di lettori, giovani, giovanissimi oggi, che magari legge manga e non legge fumetti. Ma secondo te cos'è che li ha conquistati, che ha fatto in modo che arrivassero a quello e magari non leggessero più Dylan Dog o Tex o i fumetti di supereroi? Bella domanda. So, io quando ero più giovane, cioè, ma anche adesso, ho sempre letto, mi piacciono i manga, ma leggevo anche i fumetti americani, leggevo i fumetti sudamericani che sono stupendi, e fumetti francesi. Adesso mi sembra che ci sia un po' a volte un tifo da stadio, queste cose io sono un tifoso della Juve, tu sei un tifoso della Roma. Cioè, il manga è bellissimo, ci sono quelli, e non esiste altro fumetto. Sì, c'è un po' una radicalizzazione del gusto, quantomeno di una partigianeria. Sì, esattamente. Poi è vero che, per esempio, ci sono anche dei cambi di situazione, dei cambi generazionali. Chi ha 30-40 anni, anche magari 27-25-30, e particolarmente, cioè, è comunque sicuramente un sostenitore del manga, anche perché quando era più giovane ha visto i cartoni animati alla televisione. Una volta ne davano tantissimi, sì. Adesso ne danno molti meno. E invece cos'è? Per esempio, ci sono tantissimi film adesso americani che parlano dei supereroi, l'uomo ragno, Thor, discorso... gli indicatori. E quindi c'è, per esempio, una crescita di chi legge i comics e forse meno dei manga. Non così tanto, questo lo diceva Sebuschi l'anno scorso, 2 anni fa, a Torino Comics, che non necessariamente c'è una ricaduta tra chi va a vedere i film della Marvel e chi poi compra i fumetti. No, eh? Quello sicuramente, però se noi vediamo sono i cartoni animati giapponesi che c'erano una volta, che i palinsesti delle piccole reti erano pieni, e quello che abbiamo invece ora, che per esempio il cartone animato è confinato su poche cose, su Rai 4, sì, almeno un certo su tipo, Boeing, ci sono i canali tematici, dei sì. cartoni animati molto per bambini, cioè sono dei cartoni animati più per adulti, perché lì il problema è che oggi molti, cioè oggi è sempre stato così, molti cartoni animati giapponesi sono per adulti o comunque per un target di 15 adolescenti. Quindi poi invece qua magari vengono prodotti per un target più piccolo, per cui non so, abbiamo Detective Conan, che è un fumetto molto conosciuto e che riguarda dei casi di omicidio, e le scene degli omicidi in realtà sono censurate in Italia, non si vedono mai la gente infilzata eccetera, proprio perché sì. Per cui ci sono magari puristi che dicono no, vorremmo vederlo senza questi problemi di censura. Questo è anche vero in Giappone, perché per esempio tantissimi cartoni animati adesso in Giappone te li danno, come dicono loro, alle ore 25, che sarebbe l'una di notte. Ah, ok. Perché lo considerano. E tantissimi cartoni animati giapponesi oggi sono comunque programmati a notte inoltrata. Quindi uno mette il registratore e li guarda. Quelli del pomeriggio sono solo proprio quelli per bambini. Ma è più vasto il target di età dell'anime? Ormai c'è anche anime per adulti, senza grossi problemi. Sì, ormai ci sono degli anime che assolutamente, cioè, non, diciamo sopra i 18 anni. Sia per contenuti magari di violenza, sia perché effettivamente sono più complessi, o anche per, appunto, diciamo chiaramente, contenuti sessuali. Sì. E quindi questi anime si tendono anche in Giappone a darli a una certa ora, e certamente non sono quelli che trasmetterà mai una televisione, un canale che può essere la Rai o anche le reti fini invece. Sì. O se lo trasmettono, può essere qualche tipo Italia 2 alle non so, alle 11, mezzanotte. Sì. C'è un cartone animato che si chiama Una donna di nome Fujiko, che appartiene proprio al ciclo di Lupin III, incentrato su Fujiko Mine, riconosciuta come Margot. Ed effettivamente ci sono, insomma, diciamo che c'è anche un rapporto tra Zenigata e Fujiko. E ovviamente qui l'hanno trasmesso però a un'ora tarda. È stata l'eccezione, perché era legato a un cartone animato molto famoso, che è appunto Lupin, che esce fuori anche dalla nicchia, perché proprio perché è legato all'infanzia e adolescenza di molte persone. Esattamente. Mettiamo ancora un'altra canzone, sperando questa volta che il Gremlin di averlo addomesticato. Visto che parlavamo di Giappone, ho avuto una dritta interessante relativa a un brano che si chiama Samurai, ed è del Michael Schenker Group, ed è questo, fa più o meno così. E questo era il Michael Schenker Group con un pezzo che si chiamava Samurai, l'unico pezzo scelto oggi per assonanza di titolo. Volevo mettere Godzilla dei Blue Oyster Cult, però basta, Blue Oyster Cult li ho già messi, quindi... cambiato genere. Esatto. Samurai, quanto sono importanti anche le figure iconiche? Massimo Sumare è un esperto traduttore di cultura giapponese, manga in particolare. ci sono tutte queste figure iconiche come il samurai che sono importanti per noi anche per il lavoro fatto all'interno della cultura pop da molti autori giapponesi. E quanto è andato in là, quanto è andato oltre questo lavoro di diffusione della cultura pop, tanto che per esempio Tarantino ha poi portato in Occidente la katana con Kill Bill. Però Tarantino era influenzato dal manga, giusto? Sì, sì, più che dal manga, forse dai film, diciamo, anche di serie B giapponesi, cinesi, okay. In cui si vede, insomma, non solo di serie B, anche film importanti, che ha rimescolato, in realtà Tarantino ha rimescolato, non è che ha inventato, è stato un grande mescolatore di queste chicche del cinema asiatico, e riproponendole in modo un po' scherzoso ma con affetto, perché effettivamente lui amava questi generi di film, quindi da ragazzo andava in questi cinema di periferia o di la leggenda urbana dice che lui facesse anche il commesso in una videoteca, quindi aveva tutto il tempo di vedere le VHS anche... non conosco così tanto la sua storia, conosco i film, però c'è sicuramente una volontà, una capacità di raccogliere dati, di informazioni molto nerd in positivo, e poi la capacità di reinventarla. Ed è un lavoro fatto anche dai giapponesi, se vai a vedere al contrario, con la nostra letteratura classica. Sì, sì, ci sono stati sicuramente, loro hanno preso. Ma poi comunque, ripeto, Dario Argento, tutti i film con Giuliano Gemma, gli spaghetti western, in Giappone sono famosissimi. Cioè, quando è morto Giuliano Gemma, io ho visto più gente sconvolta in Giappone su Twitter, è morto Giuliano Gemma, di quanto sia stato in Italia. Ecco, questo per è già... Per esempio negli anni 70, mi sembra fosse negli anni 70, Giuliano Gemma era famosissimo perché... partecipava a una pubblicità giapponese con una specie di lambretta di Vespino fatta dai giapponesi, chiamato Gemma in suo onore. Okay. E lui e tutti i giapponesi di una certa età lo conoscono. E anche Franco Nero è famosissimo. Questi autori, cioè in realtà quello piace. Sì, sì, sì. In Giappone sì, sì. Ci sono centri, c'era gente che si riuniva portandosi vestita come Django con la bara dietro. E stiamo parlando tra l'altro del Django di Corbucci con Franco Nero, non del Django di Tarantino. Questo poi Miike Takahashi ha fatto poi quel Sukiyaki Western Django proprio in omaggio. Quindi c'era qualcun altro al di là dell'oceano che già rimasticava la nostra cultura popolare, sì. E noi non lo sapevamo neanche, no, come Calimero anche... Sì, sì, noi abbiamo sempre cercato di portare, per esempio, in Giappone, parlo anche in altri paesi esatti, il mainstream nostro, il molto intellettuale, sì. I giapponesi piaceva invece queste cose più... ma ancora adesso, infatti sì. Sbagliamo tantissimo... nell'esportare certi prodotti in Giappone, convinti che allora quello non piace, piacciono tantissimo altre cose. C'è un legame interessante anche con l'Italia di Hayao Miyazaki, giusto? Sì, Hayao Miyazaki, sì, amatissimo in Italia, ma per esempio lui aveva collaborato anni fa con la Rai per fare quel bellissimo cartone animato di Sherlock Holmes, tutti quei cani, che io adoravo, il professor Moriarty, che parlava in piemontese. Ah, ok. Questa sarebbe una chicca da recuperare, sicuramente parlava con l'accento piemontese nel doppiaggio italiano. Sì, sì, ma perché era una coproproduzione, per cui c'era proprio... poi sono subentrati i francesi, ma i primi 6 episodi erano proprio fatti da italiani, era una collaborazione Rai, mi sembra con lo studio Pagò. Sì. Creatore di Calimero. Miyazaki era un grandissimo ammiratore, sono rimasti anche amici, e lo studio Ghibli, ed è fantastico, veramente molto bello. Hayao Miyazaki oggi è il maestro regista di anime internazionale, anche perché forse ha saputo mettere tutta una serie di influenze anche più occidentali, andare un po' oltre al... forse ha espanso più sensibilità al di fuori della nicchia di mercato, è un po' difficile da definire forse Miyazaki. Diciamo che forse è anche un regista che faceva quello che piaceva ai festival internazionali, quello che piaceva agli occidentali. Poi per esempio io ricordo che anni fa lui è stato presentato in Francia all'inizio e i giapponesi ritenevano che non fosse un autore per l'Occidente. c'era un regista per l'Occidente perché dicevano che era troppo giapponese, non era comprensibile al di fuori del Giappone. Okay. Mentre un prodotto come il film di Akira, ah sì, e questo è vendibile all'Occidente perché lo possono capire. Ok. Era un po'. Vabbè, non siamo... siamo solo noi a sbagliare cosa scegliamo di esportare. No, i giapponesi in realtà sono se ne vediamo, loro non hanno fatto mai grandissima promozione all'estero, sono sempre stati gli occidentali a andare a prendere. Come con l'ukiyo-e. Ah, è arte, così, con i manga e altre cose, poi è stato l'Occidente, i giapponesi a volte, anche perché magari vendono tantissimo. Sì, beh, cui... hanno un mercato interno molto importante dal punto di vista editoriale dei manga, quindi vuoi darci qualche cifra, nel senso... Ma non so, il più grande giallista giapponese, per esempio uno dei maggiori, Yokomizo Seishi, in Italia hanno tradotto una cosa, solo un volume, Lascia il coto, e tradotto dall'americano, anche già nell'edizione americana molto brutta, ha venduto 55 milioni di copie solo in Giappone. Ok. E, la saga Gwyn Saga, la saga di Gwyn, di cui sono usciti alcuni volumi anche in Italia, che è un fantasy, sembra che ne ha venduto almeno, è rimasto circa 30 milioni. E invece per i manga, anche i manga hanno numeri molto grandi rispetto al numero italiano, al fumetto italiano, che comunque nell'edicola numeri ragguardevoli. No, non c'è proprio confronto. Ma non c'è ok. Cioè, se noi vediamo un prodotto come L'Attacco dei Giganti, ma One Piece, mi sembra che sia venduto sui 200 milioni di copie. Ma questo perché fai la somma di una serie di volumi? Sì, beh, ovviamente, non ha volumi. Quanti, singolo. Quanti, volume quanti... singolo, mi sembra che quello ha venduto di più, sui 3 milioni, mi pare. Sì, beh, direi che... Si sta a contare che poi loro però hanno tutto il merchandising. Che noi, quindi hanno poi i cartoni animati, fanno per esempio gli spettacoli teatrali, sono spettacoli teatrali tratti dai cartoni animati dai personaggi dei fumetti, come se noi facessimo uno spettacolo teatrale di Dylan Dog o di Tess Wheeler, e sono spettacoli che fanno i sold out, c'è il principe del tennis, un fumetto sul tennis, hanno fatto 9 musical. E quindi poi adesso ci sono delle cose interessanti, per esempio riguardo anche questa ispirazione reciproca di tanti anche scrittori fumettisti, ma anche scrittori che riprendono un po' certe idee della letteratura del fumetto giapponese, un'idea un pochino più diversa di storia. Io adesso per esempio ho fatto un lavoro con Chiara Negrini, Il vampiro della bassa, che è una cosa abbastanza... C'è una storia, sono 5 storie sue di Chiara Negrini, più una storia mia che unisce il suo personaggio, Pedar, un vampiro, però un po' diverso, sessantenne, contadino, amante del buon vino, che parla in dialetto, e la mia maga globalizzata, che è una maga che invece al contrario è sofisticata, torinese, chiama... Questo è un tuo personaggio già apparso, perché quello che non abbiamo ancora detto e che recuperiamo negli ultimi minuti di programma è che Massimo è anche uno scrittore di genere fantastico. Sì, faccio anche appunto mercenario a massimi livelli. E questo mercenario con i racconti temo non credo proprio con quello che si guadagna. È difficile. Esatto. Però questo per esempio era interessante, questa idea che abbiamo usato, cioè questa idea in realtà di Chiara Negrini, che ha usato anche il dialetto, per cui è bilingue, italiano e dialetto mantovano. E questo per esempio nei giapponesi, anche i giapponesi fanno queste cose perché tantissimi libri o personaggi giapponesi parlano in dialetto. Di Arale, i due alieni che c'erano nel Dottor Slump e Arale parlano in dialetto di Nagoya. Tantissimi personaggi della Rumiko Takahashi, l'autrice di Lamu, Isonikoku, Inuyasha, parlano in dialetto. Noi abbiamo solo alla fine Camilleri. Sì. Loro hanno un sacco di persone. Il romanzo storico giapponese, il fumetto storico, anche il fumetto, appunto ritornando ai samurai, parla proprio in una lingua che ricorda quella dei samurai del 1700, come se noi facessimo un libro ambientato nel Medioevo, cioè un fumetto ambientato nel Medioevo, lo facciamo parlare come Brancaleone. Ok. Eh beh, utilizzo della lingua. E il tempo purtroppo è tiranno, magari avremo un'altra occasione per approfondire ancora un po' di discorsi, Massimo. È stato un piacere averti qui con noi in trasmissione, sono solo Nuvolette. Piacere mio. Se ci avete ascoltato, se ci ascoltate sul podcast, se volete seguirci e sostenerci, c'è una pagina Facebook, sono solo Nuvolette, su Facebook. Io sono Fulvio Gatti, alias Fulvio The Cat, su Twitter, anche lì potete seguirmi, chiocciolina Fulvio The Cat. Questa è Radio Archimede, Biblioteca Archimede, anche lì pagine Facebook, una e l'altra. Abbiamo contato l'altra volta, già in questo caso consiglio 3 click, però sono 3 click, non ci va molto. Poi Massimo Sommaré, anche lui il suo profilo Facebook, un blog, se volete seguirlo, se volete conoscere le sue novità. Il programma finisce, questa volta il Gremlin ci ha lasciato almeno concludere la trasmissione. Vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 15. Grazie a Filippo in regia, grazie a Cosimo Amendolia per l'opportunità di fare il programma. Sono sulle nuvolette, appuntamento la settimana prossima. Vi lasciamo con Eugenio Finardi, un pezzo molto classico del suo repertorio. Ciao a tutti.